Oh. sono il mio cuore ferito è già e l'indor fu il piano si l'indor mio sarà lo giurai la vincerò si l'indor mio sarà lo giurai la vincerò il tuo cor ricuserò io l'ingegno abbozzerò alla fin s'attenderò e contenta resterò sì l'indoro mio sarà lo giurai la vincerò sì l'indoro mio sarà lo mi lascio reggere, mi fa guidare. Ma se mi tocco, dove io devo, sarò una vipera, sarò. E cento trappole, prima di cedere, farò giocare, farò giocare. E cento trappole. Cento troppo